Regista, vai, vai. Lacrime di coccodrillo, sono stanco e addormentato. Da narcotico speciale o niente più. La mia testa ora è pesante, gli occhi che si chiudono. Non riesco a tenerli neanche su. Ho richiesto di sapere il significato dei miei sogni. Perché? Io non lo so. Ma del resto dovrei essere un po' più chiara che io. Se non fossi così annebbiato, dormirò e sognerò ancora una volta, niente più. Basta, sai fluttuare in questa nebbia per poter volare sempre di più. Tutto ciò che dava luce prima ormai è spento. E adesso qui è tutto buio, buio. Dammi l'anticipo, questo è il sogno per me.